YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, il terzo appuntamento con la trasmissione di Radio 24. Senti Daniele, come sono ufficiale. La trasmissione che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha scatenato il mondo del web, che promettiamo solennemente anche in questa puntata di non chiamare popolo della rete. Però voi popolo della rete ci potete scrivere contattandoci su @MartaCagnola et di Bellasio e usando l'hashtag RadioTube, la TV alla radio via web. Tu dici sempre l'imperdibile, l'imperdibilissimo, e io dico sempre la TV alla radio via web. Mostriamo. Siamo arrivati alla terza, ci avresti mai scommesso. Secondo me non se ne sono accorti, non se ne sono ancora accorti. Non se ne sono ancora accorti. Qual è stato il video della settimana, il video più visto? Io non ho dubbi. E l'ho scelto. Ecco, io vi po'. saluto i radiospettatori, ascoltatori, come si chiama? Come si dice? Si dice, sì, radioascoltatori, però nel nostro caso anche radiospettatori, perché noi glieli mostriamo. Il video della settimana è uno solo, Renato Brunetta, da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Si leggono tante cose, sa, anche sui suoi 5 milioni di euro di profitto legittimo. Ha ragione, sì. Legittimo. Io sono orgogliosissimo. Anch'io sono. Ma c'è una differenza con l'Italia, che io faccio guadagnare la mia ma azienda. Ma no, veramente, veramente basta, no. Basta saperlo, basta saperlo, basta saperlo. Io sono orgogliosissimo. Questa... Guardi, allora basta sapere, mi scusi, guardi, basta, no, mi scusi, no, faccio no, dire no, una mi cosa, scusi, no, mi scusi, faccio dire una cosa, mi scusi, sono ma no, sta parlando lei, mi faccia, sì, certo, faccia parlare ha detto anche una me. Cosa che mi faccia riguarda, no, anche lei ha detto delle cose che mi riguardano, io certo. Sto dicendo che ci vuole trasparenza, sì. E allora i 4 miliardi di cui parla Ichino non sono veri, sì. Mentre i suoi sono veri e sono legittimi, le ho detto che sono legittimi. Guardi, io sono orgogliosissimo anch'io di quello che guadagno, perché venendo da una, diciamo, famiglia normale, so e conosco il valore del denaro. Anch'io. Sono orgogliosissimo di restituire il 50% di quello che guadagno alla collettività in tasse, in tasse, tutti, e non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Come tutti gli italiani. Non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Terza cosa, questo programma... Ma mi aveva detto che il pubblico non era di parte. No, io penso che il pubblico sperasse che non arrivassimo a questo argomento, no, ma questo è un altro discorso. È lei che l'ha prodotto. No, è lei che l'ha prodotto. E basta saperlo, è legittimo e non si interrompe un'emozione. Daniele, cosa facciamo? Trasparenza. Coming out. Sai come succedeva nel Consiglio dei Ministri? Cioè, conflitto di interessi, no? Tipo, metti che tu hai un presidente del consiglio che anche è stato in passato proprietario di alcune televisioni. Immaginandosi. Allora c'è una legge che dice che quando il consiglio dei ministri si deve occupare di quella cosa lì, tipo delle televisioni, lui deve uscire dalla stanza. Quindi io adesso devo uscire dalla stanza perché ho un conflitto di interessi. Questa è la settimana del conflitto di interessi, perché io collaboro con Che Tempo Che Fa. Allora, senti, in Italia per ragioni di riservatezza, ovviamente non posso dire. Non parliamo del compenso, soprattutto non parliamo del tuo, perché altrimenti Brunetta, chissà, non ne parliamo. Professore. Ma allora, siccome in Italia del conflitto di interessi si è sempre un po' fregato chiunque, io ti faccio sentire un altro estratto di Brunetta. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione. Eccola qui. Eccola qui. Ma è tornata davvero? La Brunetta dei ricchi e poveri. Io so che di questa puoi parlare. Ma c'è anche una pubblicità. L'hai vista? No, non l'ho vista. Ho peccato impreparata Marta Cagnò. C'è una pubblicità dove uno dice chi sono io? La Brunetta dei ricchi e poveri? No. Ed è uno. Poi esce dalla macchina ed è la Brunetta dei ricchi e poveri. Ma è davvero bellissima, la voglio vedere assolutamente. Ma lo sai che i ricchi e poveri hanno fatto un concerto a Mosca con Pupo, con Riccardo Fogli, con Albano e Romina e Pupo ha twittato tutte le foto, anche lui molto RadioTube, straordinario. Mostriamole, facciamole vedere. Io mostrerei le foto a questo punto ai nostri ascoltatori. Lo so che tu stai cercando di non di tornare parlare su di Brunetta. Qualunque cosa, sto per parlare in indonesiano pur di non parlare di quello. Parleremo anche in indonesiano in questa puntata di RadioTube, ma voglio rimanere su Brunetta per forza, questa volta non con Fazio, ma questa volta Brunetta ha fatto arrabbiare Crozza a Ballarò. E ci credo. Buonasera. Quanto costa Ballarò? Quanto costa Ballarò? Ma anche qui. Quanto costa Ballarò? Quanto costa Floris? Ma lasci... Quanto costa Pagnoncelli? Ma non... Quanto costa Pagnoncelli? Ma non è quanto importante. Costa Pagnoncelli? Quanto ma costa perché? Quel Ballarò? Ma perché? Quanto costa qui? Questo cavo? Ma la... Quanto metta costa giù, questo metta cavo? Giù, metta quanto giù. Costa Pagnoncelli? Ma non... Quanto costa questo cavo? Ma la... Quanto costa la sigla cavo? Che fa il fisarmonicista? Bara, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, va. Lo sa che Pagnoncelli per fare i sondaggi inventati ha una clausola sul contratto che alla fine dell'anno si prende la Puglia? Ma si immagini, no, non è possibile. Quanto costa il meteo? Ma lasci quanto costa il meteo? Ma non lo so. Quanto chi... costa il meteo? Ma non lo so. Quanto costa Bernacca? Ma non c'è più Bernacca, è morto. Quanto è costato il funerale? Lasci stare. Quanto veramente. Costa la prova del cuoco? Ma per ci spiega... Quanto costa questo cavo? Metta quanto... giù il cavo, ci spieghi cosa, costa... cosa sta facendo. E le pulce alla Rai. Ah. Sono in tour. Ah. È il caga cazzi tour. Ecco però, veramente... Siamo guarda... io e Grillo. Cioè? Lui urla in faccia, e io mordo i polpacci. Ecco però, guarda... Fazio, è solo la punta dell'iceberg. Sì, va bene. Perché moralizzo. Sì. Moralizzo. Giova, preparati perché questa era solo un'esercitazione. Prima o poi no, ti tocca anche a te. Giova, tieni gli scontrini. Mi raccomando, però posso dire una cosa, Giova? Secondo me, in fondo è giusto. Cioè, è giusto controllare il costo dei programmi della RAI, è giusto. Certo, io controllerei anche i ricavi, perché non è che se un salumiere spende dei soldi per comprarsi un maiale... poi se lo tiene perché si affeziona. No, il maiale è un investimento. Non lo dico perché io forse avrei potuto essere il maiale di Rai 1. Radio Tube. Eccoci qua ancora, Daniele Bellasio e Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, se volete contattarci su Twitter, noi ve lo diciamo sempre, tanto non abbiamo una vita reale, stiamo sempre sui social, quindi ci trovate a tutte le ore del giorno e della notte, aspettiamo le vostre segnalazioni anche con l'hashtag RadioTube per questo appuntamento che vi fa ascoltare anche questo fine settimana, l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana, tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto tremare, vibrare, parlare, sparlare il web. Abbiamo parlato del caso della settimana, meglio ne ho parlato io, perché insomma Daniele Bellasio è l'unico che rispetta il conflitto di interessi in Italia, sei l'ultimo che è rimasto. Beh, sei l'ultimo no. Che è rimasto. Abbiamo parlato dell'affare dei compensi Rai, lo scontro Fazio Brunetta, la reazione di Maurizio Crozza. Beh, insomma, è inevitabile parlare dei talk politici, quindi il mio cuore trema ancora, sì, di c'è dolore. Questa malinconia. Sì, sì, sì, un momento, allora, concediamoci dico, un momento di tristezza. Te lo dico con Terliat Manis Dan Berat, che in indonesiano vuol dire sguardo tra il dolce e il severo. Quello di Cruciani. Ci manca moltissimo la belva, che si era pacificata, no? Con Vittorio Sgarbi o no? Beh, tu che sai tutto, no, perché allora, Sgarbi ha chiesto scusa. Tu sostieni che Sgarbi abbia chiesto scusa. So, secondo me Sgarbi ha finto di chiedere scusa per chiedere in realtà la conduzione di Radio Belva con la Parietti. E quanto l'esa costerebbe? Quanto non... costerà Radio Belva? No, a parte gli scherzi, qui ci sono due cose che non ci sono, di cui si parla tantissimo. I capelli di Sandro Maier e Radio Belva sono le due cose che non ci sono più, di cui però tutti parlano sui social network. E noi tutte le settimane controlleremo... se per caso qualcuno... ricrescono i capelli. Esatto, o torna Radio Belva. O torna, e da entrambi i casi. Allora... tu avevi anche la degli belva ospiti, se n'è andata, è rimasta la gabbia che contiene. Sembrava la belva quasi preparata. Mamma mia, ma se abbia proprio una metafora e come straordinaria. Si sa, io tifo per la belva e tu per la gabbia. Io ho un amore sconfinato per il look del nostro Gianluigi Paragone, ma non solo, a me piace anche un sacco come musicista. Sentiamo cosa ha suonato lo scorso mercoledì sera insieme agli Scassacasta. Quanto costa? C'è qualcosa che non va in questo cielo. C'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Oh, ma quanto è bravo, ma è bravissimo, è un alla grande radio rocker. Rende di più, sai? Rende, alla è radio bravo, rende. È bravo. La, vedi che la TV alla radio funziona meglio. Noi mostriamo la TV, guarda rende, che secondo sembra me... Sembra persino più intonato. Ma, no, ma senti, ma come sei cattivo. Allora, io ho portato in mio soccorso in questa puntata di RadioTube... Siete sempre due contro uno. Siamo sempre due contro uno. Uno degli autori della gabbia, Francesco Borgonovo. Buonasera, Francesco. Buonasera Marta, buonasera Daniele. Allora, intanto ti chiedo subito, ma visto che tu sei un bravissimo chitarrista, perché non suoni anche tu negli Scassacasta? Io ti vorrei vedere una volta, così esibirti, no? No, mi sembra che siano già abbastanza, hanno già dato loro a sufficienza, non vorrei peggiorare la situazione. Cioè, ti vergogni un po', ti vergogneresti un po', di la verità. No, assolutamente che non ho le scarpe adatte. Che belle le scarpe. No, allora c'è stato durante la puntata un fantastico dibattito via Twitter sull'abbigliamento di Gianluigi Paragone con Ottavio Cappellani, chiocciola Cappellani, che dice scrittore, oggi alla gabbia, bravissimo, alla gabbia oggi vige un look Lupi Mannari contro vampiri. Mi stanno sembrando oggi, gli X-Men. E poi voleva sapere delle scarpe bellissime di Gianluigi Paragone. Beh, non sì. So, non le ho notate, sei tu che... Erano bellissime. Io c'ero, ero lì, ma non Francesco, Francesco, io vorrei ascoltare con te. Non le ho viste. Erano bellissime. Sono imperdibili. Credo fossero, non so se si può dire il marchio. No, però diciamolo, non credo, è servizio utile agli ascoltatori. È servizio utile? Ma sì, scusa, Ottavio Cappellani voleva saperlo. Ah, beh, per Ottavio, ok. Ma credo che fossero Hogan, comunque, ah, le sì. Scarpe di Gianluigi. Attenzione, allora bisogna chiamare Johnny Palomba, perché lui fa denuncia alle Hogan, eh. Bisogna controllarlo bene, un altro... tormentone di Twitter. Allora, voglio ascoltare con te, Francesco, due estratti della gabbia di mercoledì, perché voglio chiederti un po' cosa è successo, anche perché poi ti facciamo parlare di Carlo Pravettoni. Insomma, ascoltiamo insieme quest'audio, Francesco. Posso ma rispondere allora, un secondo? A me spiace perché tutto si parla sempre solo di Silvio Berlusconi, ma non ne sto parlando io. Allora, Berlusconi voglio stava dire... facendo cadere il governo, niente di male, e che poi non ha avuto le palle per farlo. Ma cosa verità. C'entra niente questo discorso? Allora, saluto. Saluto. Allora, saluto e ringrazio comunque la senatrice Casellati che, come tutti i berlusconiani doc, quando si parla di Berlusconi, posso? Non vedono. Lo volevo dire. E lo volevo dire. E lo volevo dire prima che un imbecille. Eccolo, allora. Carlo Pravettoni. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Italia! Oh! Allora noi ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra poco. Aspettando qui fuori, ho incontrato una certa signora Casellati. No, la prego, dai! No! Mi ha detto di ringraziarla per la bella serata, lei e il pubblico in studio, e aveva un chiodo in mano, mi ha chiesto, ma qual è la macchina di Paragone? Io gliel'ho detto, non so cosa volesse fare. Simpatica. Dai. Allora, Francesco Borgonovo, autore della gabbia, chiocciola Fran Borgonovo per gli utenti di Twitter. Francesco, cosa succede dietro le quinte di un talk show quando succede una cosa del genere? Ma noi abbiamo cercato di riprenderla, la signora Casellati, però lei è... diretta era verso i camerini e non c'è stato verso di convincerla a quindi tornare indietro. Era tutto vero, lei se n'è andata proprio? Si è tolta il microfono e se n'è andata. Ah, così si fa. Una gabbia dalla quale si può uscire. Esatto, si può uscire. Così, è una gabbia. Si può uscire, se è giustamente liberata dalla gabbia, insomma, se n'è andata. A me dispiace perché comunque mi pare che la sua motivazione fosse un po' eccessiva, cioè abbiamo appena accennato, tra l'altro il ragazzo che stava parlando in quel momento ha parlato due secondi, cioè ha introdotto il tema di Berlusconi, lei si è risentita e ha deciso di andare via, libera scelta, insomma, noi... Se vuole tornare, siamo qui. Ma poi come avete fatto? Perché noi li abbiamo accostati, è passato in realtà qualche minuto, a inserire la battuta subito nel monologo. Andiamo di Pravettoni. Andiamo sul tecnico, alla grande. Ma scusa, siamo curiosi. Certo, cioè, è venuta a lui l'idea. Com'è stata? Bello è stata questa cosa che avete reagito subito. Beh, ma noi abbiamo la fortuna che siamo lì e con Paolo Wendel ci siamo... Beh, non possiamo tacere, no? voglio dire, non possiamo non dire una stupidaggine su questa cosa, quindi bisogna che la diciamo a tutti i costi. Non ci siamo trattenuti e ci è venuta così sul più bello, era anche un modo per drammatizzare, no? No, molto carino, molto, che... molto molto carino. Senti, ti chiedo un'altra cosa, Francesco, ma mentre tutti noi facciamo social TV e twittiamo con l'hashtag La Gabbia quando c'è La Gabbia in onda, gli autori controllano i tweet? Sì, noi i tweet. Compulsiamo ossessivamente i tweet per vedere quanti sono, che cosa ci dicono, quali sono i commenti sulle scarpe di paragone, sul vestiario soprattutto. Bilderberg. E quindi noi siamo attentissimi, quelli mandiamo anche in onda, tra l'altro, mandiamo in onda tantissimi. Abbiamo anche in studio una persona che è Diego Destro, che si occupa ogni tanto di fare durante la puntata il come dire, di darci un resoconto di quello che è successo, sta succedendo su Twitter. E di solito sono anche parecchi, insomma. Ecco, ma credo che... su Twitter si discute molto di alcune cose che sono un po' delle fisse della trasmissione. Per esempio, che male vi ha fatto Bilderberg? In tutte le puntate a un certo punto arriva un servizio dove ci sono delle oscure riunioni, quando invece si sa tutto, si sa chi c'è. E poi l'altra cosa che mi incuriosisce molto è questa tecnica del ribaltare tutto, no? Gli ospiti di solito sono seduti e voi li tenete in piedi. I più autorevoli di solito sono in collegamento e voi ci mettete 5 stelle in collegamento. Quindi ribaltate tutti gli schemi. Beh, ma intanto sul fatto che al Bilderberg si sappia cosa succede non è mica tanto vero, perché tu sì, sai i partecipanti, sono sempre gli stessi, sai la lista, ma quello che si dicono poi non lo sai, anche perché una delle regole del gruppo è appunto che lì si possa parlare liberamente, quindi si trovano. Però è anche un po' un elemento narrativo, no? Quello di creare delle ossessioni, dei nemici dichiarati, no? Non sono nostre invenzioni, sono cose che accadono, ci sono, poi noi le mettiamo in scena in quel modo lì, cerchiamo anche cioè non siamo Adam Kadmon, ecco, da questo punto di vista. Noi cerchiamo di fare qualcosa di diverso dagli altri, no? Se ci dicono tutti che i talk sono morti, che ce ne sono troppi, che fanno tutte le stesse cose, noi cerchiamo di fare qualcosa di diverso, probabilmente ci riusciamo, forse, non è detto che piaccia a tutti, magari non ci riusciamo bene, però qualcosa di diverso cerchiamo di farlo. Parlare del gruppo Bilderberg è una delle cose che ci hanno caratterizzato, parlare dell'Europa è una delle cose che ci ha caratterizzato, non a caso poi tanti altri programmi l'hanno fatto dopo, noi non è che siamo arrivati adesso, già a Rai 2 parlavamo di queste cose, già l'anno scorso facevamo all'ultima parola questo tipo di servizi, continuiamo a seguire la nostra linea. Mi piace essere andata dietro le quinte della gabbia, io promuovo Francesco Borgonovo, va bene? Vabbè, Francesco senz'altro. Ma Francesco, la gabbia per un po' meno. Vabbè, io... Senti, lo convinceremo puntata dopo puntata. Inviteremo Bellasio in gabbia. Così sono di nuovo in conflitto di interessi e di nuovo non posso parlare più di niente. Mamma alla fine mia, di questa trasmissione. No, Bellasio non parlerà venire, più. L'importante, le scarpe te le diamo noi, guarda, te le offro io. Questo non le c'è dubbio, blu, anche perché io ho... Sul look sono a lezione da Marta. Allora, club. Francesco, grazie per essere stato con noi. Il tuo account Twitter è Fran Borgonovo, così se qualcuno volesse seguire oltre all'account attivissimo di Gianluigi Paragone, all'hashtag attivissimo La Gabbia, anche te, insomma, lo può fare. Grazie Francesco, buona serata. Grazie a voi, altrettanto, grazie. Ciao. Allora, abbiamo svelato un po' di meccanismi dietro una trasmissione molto... Siamo quasi un documentario. Quasi un documentario. Io vorrei andare però a sentire un altro protagonista dei talk di questa settimana. Io non starei neanche tanto a commentarla perché si commenta da sola. Michelle Bonnev a servizio pubblico. Mentre mi accompagnava verso l'ascensore, si fermava spesso per ascoltare la mia storia. Che io volevo fare questo film, che ho portato la sceneggiatura, mi ha preso le mani, tutte e due, e mi ha detto: Michelle, io ti sopporterò. Grazie Presidente, a me piacerebbe molto che Medusa prendesse i diritti, che potesse coprodurre con me questo film. E di fatto il film viene prodotto, ma non con Medusa, con la Rai. Ma come mai lì Berlusconi vuole far risparmiare Medusa? Come mai lo fa non produrre con la non Rai? L'ho capito, non l'ho capito, perché quando ad ottobre lui mi disse che la Rai sarebbe stata molto felice ad acquistare i diritti del mio film per 1 milione di euro, io sono rimasta molto colpita. Ma Venezia, non ti piacerebbe? Lo dobbiamo commentare, no? Io non lo commenterei. Venezia perché... come città, dici? Venezia come città, appunto. Che tu conosci Che io bene. Conosco bene, non ho mai preso un premio però a Venezia, dovrò correre. Ma vorresti ripari. Andarci? Ma certo, vorrei andare a Venezia. RadioTube. Ancora insieme con RadioTube, ancora con Marta Cagnola, ancora con Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola. Se foste dei frequentatori di Twitter, noi lo seguiamo tanto perché inevitabilmente, parlando della televisione ma anche della social TV, della web TV, insomma, si parla tanto di televisione su Twitter, soprattutto in Italia, insomma, se ne parla tanto. Ma si parla questa settimana si è parlato tanto in indonesiano. Indonesiano, ancora. Sì, perché sì, allora, Tuxedo Puti. Smoking bianco. Ah, beh, però cartone che su Twitter, tu non lo sai perché non segui il calcio, ma tutti hanno fatto hashtag Giacartone, perché il presidente della Juventus, per prendere in giro la grande onoratissima squadra Inter, parlava di Giacartone con l'hashtag, che in indonesiano si dice Kardus. Poi arriveremo a dire perché ne parliamo, no? Sì, sì, ma tra poco ne parleremo. Proprio. Anche una ti vedo per la prima volta di profilo e eccitata. Perché siamo in uno studio diverso. Proprio, sì, siamo in una finta diretta. Però diretta, diversa. Allora, senti. Basta, qua. Basta, divento serio. In rete sì. Si parla tanto di qualcosa di molto pericoloso. Beppe Grillo. Allora, parlare di Beppe Grillo è sempre un rischio. Perché se ne parli bene, se ne parli male, succede sempre il finimondo. Ci sta simpaticissimo. Lo amiamo. Allora, cos'è successo? Che dopo la faccenda di Brunetta, Fazio, poi ancora Crozza, Grillo ha detto, ovviamente, non ci sto, questa storia dei compensi è scandalosa, cosa faccio? Vado a Sanremo. Allora, panico. Dove anche tu vai sempre. Io esatto, come a Venezia. Panico perché mi sono vanno detta tutti nelle città dove vai. Ma quest'anno ti porto. Bellasio, stai attento che ti porto a Sanremo. Sarebbe con me. Stupendo. Ti porto a Sanremo con me, preparati. Allora, già panico perché mi sono detta sta a vedere che dovrò passare una settimana a Sanremo a rincorrere Grillo. Ma cosa è successo in rete? Ovviamente si sono scatenati quelli che hanno cominciato a postare dei vecchi video su YouTube del 1989, perché Grillo andava a Sanremo e in particolare è stato bonariamente, non arrabbiatevi con noi, è stato bonariamente canzonato per averci visto poco giusto su un certo cantante. Beppe Grillo a Sanremo 1989. E giovanotto, ecco giovane, ecco mi ha gridato Gio. Io adesso se sono qua a parlare, ecco la mia sconfitta, il mio fallimento, essere qui a parlare di uno come giovanotto. Sono un fallito, mi sento. Giovanotti, cosa vuoi dire su Giovanotti? Puoi mica fare una battuta coi doppi sensi, intelligenti, devi aspettare che canta, mentre lì che canta, che mi fai? Gli vai dietro, bah, vai a lavorare! Vai in miniera! Ma cos'è? Cos'è quello lì? No, ora, onestamente, sarà mica un cantante, quello lì è una scorreggina, cos'è? Dove andremo a finire? Allora, però io ho riso perché era carino. Ma c'è un altro video che gira molto in rete, fa morir da ridere. C'è un grillo nell'81 che sfascia un computer, praticamente facendo capire che il computer sarà la rovina dell'umanità. Lo stesso grillo che oggi ogni tanto dice popolo della rete. Beh, però è bello, dai, si cambia, si cambia. Cambiare come idea si cambia, è bellissimo, come cantava la Manoia, come si cambia. Sorridendo, però. Allora, Roberto Fico, chiocciola Roberto underscore Fico, sempre che per parlare in twitterese. Non ce l'abbiamo, ma è già stato al telefono questa settimana su Radio 24, ha rassicurato, non esiste nessun Occupy Sanremo e lo ha scritto via Twitter. Però cosa aveva detto Fabio Fazio? Possiamo nominare Fabio Fazio, chiocciola Fab Fazio, disse verremo a cantare a Sanremo, twittava Beppe Grillo e lui ha risposto se hai due pezzi belli ti prendiamo, ripeto, due pezzi, e giusto? Tu l'hai quindi trovato? Ma in realtà non che l'ho trovato. Sei una giornalista d'inchiesta. In realtà non l'ho trovato io, ma l'amico Leonardo Metalli, che è un collega del TG1 che non nasconde le sue che tendenze che non abbiamo al telefono, ma che chiameremo, che non nasconde le sue simpatie grilline, ha proposto di mandare a Sanremo una canzone da lui composta che si intitola L'urlo della rete. Forza, coraggio, brava gente, da sempre indifferente, solo chi merita batte il prepotente. vita che corre sulla rete, che ha cuore chi ci crede, riforma le città. Vita rubata dai cialtroni, vestiti da buffoni che mangiano milioni. Uno che vale uno, niente e nessuno, la rete fermerà. Allora, posto che secondo me all'Ariston ci potrebbe pure stare, sì. Però bisogna dire, bisogna ricordare a Leonardo Metalli, che peraltro lo e sa benissimo. E qui viene fuori la secchiona? Che no, il pezzo cioè non deve essere, deve essere presentato apposta per Sanremo. Quindi sì, noi gli abbiamo rovinato mandandoli ma no, perché già lui l'aveva proposto, insomma è già in rete da molto tempo, quindi Leonardo devi scriverne un altro, perché secondo me potrebbe anche essere un grande colpo di scena. Due. Ma pensa che colpo di scena. Ma infatti io lo farei. Ma a parte che immagini? Picchi d'ascolto incredibili. Ma vabbè, ma perché... su Marte lo guarderebbero. Esatto, dialogo. Poi credo che Fazio imitasse anche Grillo. Ma passato. Certo, ma certo. Una cosa qualcosa di strano. Sarebbe la rivoluzione totale. Ma... almeno Sanremo lo lasciate sulla Rai, no? Visto che avete portato Miss Italia sulla altro... Cioè dei punti di riferimento ce li lasciate. Sanremo resta Marta sulla Cagnola Rai. Marta Cagnola ha deciso. Siamo sicuri quest'anno c'è, mentre sappiamo anche che Crozza resta sulla 7 perché anche lì abbiamo firmato, quindi basta. Allora, il momento hashtag mica pizza e fichi. Allora, le dobbiamo grandi trovare, come si dice in indonesiano, mica pizza e fichi. Ma stai buono che adesso te lo troviamo pure. Allora, le grandi scoperte di Daniele Bellasio, le grandi sorprese di Daniele Bellasio, no, che dopo aver scoperto l'esistenza di Mica adesso ha avuto un'altra rivelazione querelo, questa settimana. Ti querelo. Io andavo ai concerti di questo autore quando tu eri ancora alle elementari. E quindi era veramente poco tempo fa. Allora, si è stupito il nostro Daniele Bellasio perché gli è piaciuto molto un brano che è uscito questa settimana, ovviamente twittatissimo, non dirò cliccatissimo, citato dappertutto nei social, però lo è. Eccolo qua, cambia menti, Vasco Rossi. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Invasa la rete da questo pezzo, bello, di Vasco piaciuto come tanto, il vino. Piaciuto, sì, migliora, no? Poi lui è forte, poi mi piace perché adesso si è un po' calmato. Ma i clippini, quello era per me era un genere televisivo che io ho adorato, i clippini. Però mi piace anche quando si fa le anteprime abusive da solo, cioè lui ha twittato in anteprima straordinaria, planetaria, esclusiva e abusiva il video prima che uscisse, lui è oltre. La voce incredibile. È una voce sbagliata, è la dimostrazione che a volte le cose sbagliate sono perfette. È vero, basta. Non possiamo litigare su Vasco Rossi. Però adesso è arrivato il momento storico nel quale parleremo di calcio. Oh, sono pronto. Allora, io sono meno pronta. Menual Merek. Vendita del marchio in indonesiano. Ah, perché qualcosa è successo questa settimana. Qualcuno ha venduto. Però scusa, questo lascialo presentare a me. Sì, perché allora, mi fido. È stato cliccatissimo. Hai detto cliccatissimo. È una delle voci più riconoscibili di tutti i servizi televisivi di tutti i tempi. Ecco, adesso puoi dire pure Popolo della Rete, siamo a posto. Ha ottenuto il triplete. Sai cos'è il triplete? Ma però a me ricorda Mourinho. È vero. Ovviamente Mourinho è Mourinho nel cuore di tutti noi. Però è anche merito suo. Mandiamolo. Tutto e credo che ci sarà comunicato stampa in poche ore. È soddisfatto per come si è chiusa la vicenda? Sì, soddisfatto. Sì. I tempi sono stati lunghi, però insomma mi sembra che la cosa sia equilibrata, si è fatta bene. Che cosa si sente dire in questo momento anche ai tifosi, insomma, si è chiusa questa vicenda a questo punto? No, beh, adesso aspettiamo di fare il comunicato stampa e poi vediamo. Anche per me tutto questo che faccio finta che sia abbastanza regolare, filtrato e tutto, è chiaro che è sorprendente sotto il profilo del comportamento e delle responsabilità, ma e quindi vedrò un po' cosa mi sentirò dire. Beh, l'entusiasmo proprio a pacchi. Beh, allora Moratti non è proprio un uomo pirotecnico, è sempre molto contenuto. Allora, queste parole indonesiane io le conosco grazie ai consigli di un collega molto autorevole, importante, giornalista del Sole 24 Ore, che si chiama Lello Naso. Che conosce l'indonesiano. No, che soprattutto è gobbo, cioè juventino. Aia. E quando Moratti ha detto "sono molto soddisfatto", in realtà, come faceva Cuore una volta, la traduzione era "Adala al Yang Yat è una cosa antipatica". Ah, beh, ma è straordinario. Siamo preparatissimi sull'indonesiano. Ma cos'è sta storia di Giacartone? Dunque, praticamente, quel simpaticone del presidente della Juventus ha su Facebook, non su Twitter. Tu quale dei due preferisci? Beh, ormai sono più abituata a Twitter, ma sono democratica, possiedo anche Facebook. Io pure, e sono meno democratico. Però, comunque, il concetto è che lui ha inventato questo hashtag, Giacartone, perché loro sostengono che siccome noi abbiamo vinto uno scudetto a tavolino perché la Juve aveva qualche problema con la giustizia sportiva, quello scudetto è di cartone. Pensa che per me è uno dei migliori. L'ho capita adesso, già cartone. Lezione di calcio. Cartone, allora, che si dice cardus. Allora, siccome secondo me non lo pronunci bene questo indonesiano, ti faccio un regalo. Io ho spulciato tutto YouTube. Tu che squadra tieni? Io lascio il mistero. Allora, io ho spulciato la Roma. Il nostro grandissimo Fabio Cantadori ha fatto l'outing. La Roma. La Roma. Allora... Ma sei della Brianza? Ma ci sono ragioni storiche. Allora, io ho andiamo avanti. Ho spulciato YouTube e ho trovato una serie di lezioni di indonesiano. Te ne farei sentire un pezzettino, poi ti do il link, così tu puoi studiarlo per bene. If you are going to say Indonesian, is Bahasa Indonesia. You can't leave the name of the country because then it will be not clear which language do you mean. Which language? Which language? No, perché allora se tu dici solo Bahasa vuol dire lingua, allora devi dire Bahasa Indonesia. Insomma, io ti mando il link che così tu poi ti studi tutto l'indonesiano possibile per affrontare questo difficile campionato di calcio. Direi che può servire. Grazie, lo prendo come suggerimento. Io ti farò delle lezioni di calcio anche per convincerti. Capisco che la Roma quest'anno è la Roma, però insomma potresti cambiare idea. Ma chi lo sa, siamo giovani, c'è sempre tempo. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto per restare insieme. Abbiamo la possibilità di parlare di al musica telefono con di... Beppe Grillo. No, no. Per questa volta no. Però, però chissà, la prossima. Però chissà. Parleremo di musica e parleremo dello scandalo in rete degli ultimi giorni. Radio Tube. Rieccoci per gli ultimi minuti insieme con il nostro Radio Tube, ma tanto poi ci potete contattare tutta la settimana con i nostri account Twitter, @MartaCagnola, @DiBellasio, poi c'è l'hashtag e faccio il cancelletto con le dita, ma voi non lo vedete alla radio, Radio Tube. Insomma, vi facciamo comunque compagnia e aspettiamo le vostre segnalazioni. Io però vorrei farvi vedere alla radio. Vediamolo. Vediamo alla radio uno dei nostri beniamini, che è Rosario Fiorello. L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti, si è inventato il suo format. Lui è uno che cavalca la radio e cavalca la rete come altri non sono riusciti a fare. Ha fatto per primo un vero suo format, che è l'Edicola Fiore. Questa volta però ha parlato, lo fa spesso, ma questa volta in particolare si è speso per una causa che anche noi vogliamo rilanciare via Twitter. Io ascolterei il nostro Rosario Fiorello a Edicola Fiore, alle prese con un musicista molto molto molto bravo. Ragazzi, un'atmosfera del tutto particolare, oggi qui a Edicola Fiore, come vedete c'è Pigi, questo grandissimo artista, Se li volete a Sanremo. chiamatemi. Chiamate anche il numero. A me. Il numero com'è? Il numero. Non lo possiamo dare, sanno come trovarmi, perché loro come nuove proposte può essere, cioè vi alziamo proprio, vi alziamo la, vi alziamo, cioè come possiamo chiamarlo, alziamo il livello della cultura con loro, diventa il brano inedito, ce l'avete casomai, ce mai suonato per Sanremo? C'è, quindi è una specie di provino per Sanremo. Fazio, mettiti una mano sul cuore, mi raccomando, e vedi tu, 3, 2, 1, oppure quelli della commissione, insomma, prego. Pici e la sua orchestra, Pici con la CEI però. Allora, mentre no, non è PG Battista, perché PG Battista è con la G, lui è PG con la J. Ah, scusa. È diverso. Tanto tu stavi tamburellando di Sanremo. Sì, abbiamo parlato di Sanremo. Allora, Grillo vuole andare a Sanremo, deve portare le canzoni. Qui addirittura c'è l'endorsement di Fiorello. Mica male, eh? Mica male. Mica pizza e fichi anche mica anche male. Qui. Potremmo mica inventare male. Con le dita Castelletto, mica male. Mica male, mica male, sempre con la K come mica per mica X Factor. Quello che cantava. C'è un grande endorsement da parte di Fiorello per il nostro Pigi che abbiamo chiamato. E quindi buonasera Pigi. Pigi, ma com'è stato avere questo endorsement? Com'è stato partecipare a questa edicola Fiore? Ma l'edicola Fiore è un luogo meraviglioso, cioè io voglio vivere là, perché molto presto la mattina, molto, molto, molto, molto, molto presto, ma è bellissimo, proprio sono le uniche volte della vita in cui sono felicissimo di svegliarmi alle 4:30 di mattina, però si sta in un clima fantastico, loro sono tutti bellissimi, tutti gli edicolanti, non me l'aspettavo che Fiorello amasse così tanto la mia musica, le mie canzoni, ha detto delle cose enormi. Sono tanto Senti, contento. Addirittura ha tirato fuori l'appello Pigi a Sanremo, te l'aspettavi sta cosa? No, per niente, perché insomma non era così, proprio dal nulla, completamente improvvisato tutto, come sempre tutto improvvisato a Edicola Fiore, e quindi così sono rimasto, poi l'ha fatto varie volte. Qui parliamo di rete, quindi io l'ho visto in giro l'hashtag PG a Sanremo, io lo rilancio, cancelletto PG a Sanremo e poi vediamo cosa succede. Vabbè sì, adesso... No, mi fa piacere tutto questo affetto in giro, io mi sto concentrando sul registrare il mio disco e vado in giro con i piedi per terra, perché ci mancherebbe altro, sarebbe bello, ma insomma io sto pensando alla musica in questo momento e niente. Grazie Pigi, fantastico, hashtag Pigi a Sanremo, io appoggio la mozione Fiorello, Fazio ascoltalo, Fazio prendilo in considerazione, a me questo Pigi piace veramente tanto, quindi dico la Fiore anche talent carina. Scout, beh bello, ci piace, sì assolutamente, un aspettiamo sito i pezzi di Grillo per però, prepararmi, ho visto, ha un sito molto bello, un sito molto bello, aspettando i pezzi di Grillo, perché appunto se vuole andare a Sanremo prepara due pezzi. Allora vorrei concludere questo appuntamento con RadioTube con lo scandalo della settimana. Le Iene, intervista doppia, Belen, marito, Stefano De Martino. A un certo punto Belen parla male, ma non lo so, di una conduttrice della quale non faremo il nome. Non lo faremo. Lo sanno tutti. Dico no. Diciamo no. Lei dice una cosa di questa conduttrice e questo video delle Iene sparisce dal sito delle Iene e dal sito Mistero. Di Mediaset. Io ascolterei cosa ha detto Belen. E come fai a averlo? Sai cosa faccio quando mio figlio piange forte forte di notte? Invece di dirgli: guarda Santiago, se ti comporti male chiamo l'uomo nero, io dico: se ti comporti male chiamo la... E lui si sentisce subito. Eh no, il bambino piangeva, non abbiamo sentito chi chiamava. Chiamava questa conduttrice della quale non facciamo il nome. E tu mi hai chiesto come hai fatto ad avere questo... È la puntata dei misteri. Ma chi è in rete? Sembra una puntata della Leosini, praticamente. Mito assoluto. Quando chiamiamola? Ce l'abbiamo al telefono, sorpresa. Allora, chiamiamola, prossima volta chiamiamola. Allora, perché lo sappia? Perché abbiamo il video? Perché Belen... furbacchiona che cosa... coi video diciamo che vabbè, ma scusa, ma no, dobbiamo sempre andare a sottolineare che adesso sa come difendere il passato, sa come difendersi. Allora, lei cosa ha fatto? Ha postato un video ripreso dal televisore su Instagram. Beh, ma questa è una storia pazzesca, emblematica di tutto quello che stiamo facendo. Lei ha postato questo estratto su Instagram nel quale parlava una donna, l'ho scoperto via Twitter, parlava di una donna di cui non facciamo il nome, che si sarebbe forse sentita offesa da questo video nel quale noi non abbiamo però ascoltato nulla perché il bimbo piangeva, quindi non sappiamo. Ecco, lasceremo il mistero per farci andare avanti con la trasmissione fino alla fine della stagione. Ma infatti noi non sappiamo nulla. Non ne parleremo. Noi non ne parleremo, poi è stata lei a postato, noi non lo sappiamo. Io peraltro non so nulla davvero. Esatto, quindi non ci sono problemi. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Prima fammi dire questo, proprio ci tengo, è un messaggio accorato alla nazione. Bawa Gang Penipù, quella banda di truffatori. Senti, abbiamo arricchito i nostri orizzonti questa settimana con l'indonesiano. Io mi sento più pronta, più preparata e sono contenta di aver portato a termine questa puntata di RadioTube. Chissà se ce ne sarà un'altra, lo scopriremo solo vivendo, come diceva sempre il poeta. Saluti sempre a Sandro Maier. Sempre a Sandro Maier, saluti sempre a Sandro Maier, il nostro grande Sandro Maier, e speriamo che ritorni Radio Belva. Ringraziamo Fabio Cantadori in regia, è proprio tutto per il nostro RadioTube questa settimana. Vabbè, ci ritroviamo il prossimo fine settimana. Belva torna.